Ho il naso come il bulbo di una patata arroventata, il mal di testa come una festa riuscita male che più male non si può. La mia agilità è pari a zero, il prurito insistente come l'acido corrode la mia mente continuamente. Antistaminico, ti voglio bene, quasi ti amo anche se mi fai dormire un po'. La turbolenza degli allergeni che mi consuma, il muco mi attanaglia. Antistaminico, ti voglio bene, che mi sollevi da queste pene. Dentro il letto mi metto, cautela la madre consiglia. Copriti bene se ti senti fredda, hai la pressione bassa nell'anima. Se non bastasse, ho anche il naso chiuso e il mal di denti. La pista quella giusta è invocare un farmacista. Glicero, fosfato, fenolino, bitumato, atomico, neuronico, plutonico, vasectomitico, sterilizzato, supersonico, antistaminico. Antistaminico, ti voglio bene, quasi ti amo anche se mi fai dormire un po'. La turbolenza degli allergeni che mi consuma, il muco mi attanaglia. Antistaminico, ti voglio bene, che mi sollevi da queste pene.